Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. In che modo l'intelligenza artificiale trasformerà il mondo del marketing e della pubblicità nei prossimi 20 o 30 anni? Cercheremo di rispondere a questa domanda con due puntate, stasera e domani sera, che prendono spunto da un libro appena uscito e pubblicato a cura di PHD, che è l'agenzia media di comunicazione del gruppo Omnicom Media, ed è un'agenzia particolarmente attenta ai temi dell'innovazione. Il libro si intitola Merge, il divario finale fra uomo e tecnologia, cosa che non guasta, i proventi della vendita saranno devoluti all'UNICEF, e noi parliamo di questo libro, di una parte di questo libro in cui si affronta il tema che vi dicevo, con Alessandro Lacovara, che è Managing Director di PHD Italia. Buonasera, benvenuto. Buonasera Maurizio. Allora, abbiamo così immaginato di poter affrontare questi scenari del marketing e della pubblicità futura attraverso delle parole chiave. La prima è marketing predittivo. Che cosa si intende? Ecco, cercheremo anche di fare un percorso naturalmente cronologico, no? Anche dal presente verso il futuro. Marketing predittivo, che cosa è? Ti faccio un paio di esempi, uno nell'ambito dell'e-commerce, Amazon ad esempio, e un altro invece un altro ambito, che è l'ambito delle utilities, dei servizi, delle telecomunicazioni o delle assicurazioni. Nel primo caso non solo Amazon ma anche altri brand noti dell'e-commerce utilizzano i recommendation engine, cioè motori che raccomandano prodotti o servizi in base agli acquisti che hai fatto sui loro siti o sulle loro applicazioni. Questo tipo di tool, di strumento, genera già oggi dal 5 al 10% delle vendite che questi grandi brand di e-commerce fanno. Ad esempio, compro su un sito di moda, all'interno del sito di moda troverò dei prodotti che il motore predittivo ritiene che possono interessarmi nel tempo, non solo all'interno del sito ma anche attraverso push notification o altri canali di marketing. L'utente viene raggiunto con una serie di proposte che vengono scatenate in automatico dall'intelligenza artificiale che sta alle spalle di questo marketing predittivo. Ecco, quando parliamo di proposte parliamo anche di politiche di prezzo, cioè questa intelligenza artificiale può fare un'offerta decidendo anche un prezzo diverso a seconda dell'interlocutore con cui ha a che fare. Esattamente, e anzi mi porterei anche qualche passo in avanti. Questa credo che sia la singola cosa che cambierà completamente le regole del gioco. Ti faccio un altro esempio. Oggi ci sono diversi settori, ne ho citati alcuni prima, quindi il mondo delle assicurazioni, sì, o il mondo delle telecomunicazioni, o il mondo delle utilities, quindi dell'energia, sì, sì, che sono basate su tariffe e prezzi. Oggi le tariffe e i prezzi sono decisi dalle persone del marketing, vengono segmentate in una serie di classi di valore, quindi ci sono clienti che appartengono a una classe 1, altri clienti a una classe 2, altri clienti a una classe 3 e via discorrendo, e queste tariffe vengono pensate o per trattenere i clienti o per acquisirne di nuove. Ecco, in futuro, ma non parlo di un futuro lontanissimo, parlo di un futuro molto prossimo, non avrà probabilmente più alcun senso una cosa del genere. Ci saranno degli assistenti virtuali o delle piattaforme che, secondo me, probabilmente su una base di asta, quindi domanda e offerta, decideranno in automatico e in modo atomico, quindi calato sulla singola persona, qual è la tariffa e il prezzo migliore per trattenere il cliente o acquisirne uno nuovo. E questo avverrà in tempo reale, ad esempio con le microassicurazioni. Credo che ci saranno delle assicurazioni che si possono attivare o anzi verranno attivate direttamente dall'assistente virtuale in quel dato momento, perché il cliente sta andando in vacanza, sta andando a sciare, deve utilizzare o si sta buttando col bungee jumping, per cui può essere anche un'assicurazione di 3 minuti, no? Da un punto di vista... Microinsurance. Ecco, perfetto. Passiamo alla parola chiave successiva, che invece è product recognition. Beh, questo è un concetto, cioè riconoscimento del prodotto. Cosa vuol dire? Si intende che attraverso una fotografia a un prodotto, il sistema, lo strumento, lo smartphone, in questo caso l'applicazione, lo riconosce e mi propone di acquistarlo in tutti i negozi virtuali gli internet store che lo vendono. È una cosa che si è già vista in una sitcom famosa che si chiama Big Bang Theory, dove si inventano un'app per le donne che amano le scarpe, insomma, che possono fotografare la scarpa dell'amica e sapere di che cosa si tratta esattamente. E magari a quel punto acquistare anche direttamente, uno può immaginare, no? Succederà esattamente così, è una rivoluzione per esperienza cliente. Chiunque potrà fotografare la scarpa, il maglione, il cappello di un amico o all'interno di una vetrina, che alla fine dove, da dove derivano le decisioni d'acquisto, e il sistema lo riconoscerà, metterà in lista tutti i siti in cui lo vendono con una comparazione dei prezzi e da lì avverrà l'acquisto. Significa che la fotocamera dello smartphone sarà il primo passo per entrare all'interno dell'e-commerce, del flusso di e-commerce. E poi c'è un ruolo anche per la realtà virtuale nel futuro, diciamo, del marketing e della pubblicità. Sì, per realtà virtuale naturalmente. Cosa intendiamo? Si intende la realtà immersiva, quella che si può, a cui si accede attraverso un visore, nel mondo dei videogiochi ad esempio, la realtà virtuale a cui si può accedere attraverso uno smartphone all'interno del quale siamo stati immersi in un mondo, è quella che succede oggi, ad esempio la Fondazione Prada con un evento immersivo pensato e con la regia del regista Inarritu, è quello che succederà ai brand e ai clienti in futuro. Ok, quindi diciamo è una nuova modalità di esperienza, di customer experience, come dicono quelli che ne sanno. Invece io mi vedo dal punto di vista del consumatore di beni che non si occupa di marketing e mi domando se invece io potrò avere un aiuto quando voglio fare delle scelte di acquisto, perché in fondo banalmente adesso devo cambiare il frigorifero, so quali sono le caratteristiche che mi interessano, i vincoli che ho, mi piacerebbe avere uno strumento che mi consente in quel momento di ricevere anche tutta la pubblicità coerente con le mie necessità. Qualcosa del genere potrebbe essere in arrivo? Riusciremo ad avere un marketing pulito e non invadente prima o poi? Ma allora, credo che, tornando al tema della realtà virtuale che si collega anche a questo argomento che hai sollevato, assolutamente sì, saranno gli stessi clienti a voler entrare nei mondi fantastici della realtà virtuale, all'interno dei quali ci saranno si potrà accedere direttamente all'acquisto dei prodotti che all'interno della realtà virtuale verranno pubblicizzati. Ecco, ma per capire, se io entro nella realtà virtuale di Prada, posso solo comprare Prada, ecco, voglio dire, non è che ho un elemento comparativo. Ci saranno molla di realtà virtuale dove potrò comprare qualsiasi cosa. Va bene, la Covara, ci dobbiamo fermare qui per il momento, ma ci diamo appuntamento domani per andare avanti. Va bene, buonasera a te, buonasera a tutti. A domani.